About Cult, il programma di aboutbologna.it condotto da Silvia Santachiara e Valentina Fabbri. Gli artisti della scena musicale contemporanea si raccontano. 25 minuti di immagini, testi e storie. Ciao a tutti e benvenuti anche oggi su Radio Città Fujiko con una nuova puntatona di About Cult, possiamo dirlo, puntatona. Sì, decisamente puntatona, siamo sempre noi, io e Silvia, Silvia e io, un po' come Sandra e Raimondo. Sì, più o meno. Io scalcio anche quando anche sono sotto notte. Le coperte. Calpito. Vabbè, torniamo serie. Oggi parleremo di un grandissimo artista della scena musicale italiana, Niccolò Fabi, che abbiamo incontrato e intervistato qui a Bologna in Feltrinelli lunedì. Si è venuto per presentare il suo ultimo album, che è Tradizione e Tradimento, uscito l'11 ottobre, che è stato scritto e registrato tra Roma e Ibiza. E prodotto non solo da Fabi, ma da Fabi insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, con la collaborazione di Costanza Francavilla, che in particolare ha lavorato sui tre brani dalle sonorità, diciamo, elettroniche più sperimentali. Lanciamo subito l'intervista, ma non perdiamo tempo, Valona, esatto, perché dobbiamo ascoltarla. Siamo in Feltrinelli a Bologna con Niccolò Fabi. Ciao Niccolò. Ciao. Tradizione e Tradimento è un disco, ma è anche un percorso. 9 brani che contengono un movimento, si muore nel rigore, nel movimento assente. Dici in A prescindere da me, è un termine che ritorna in molti dei brani. Un movimento da dove e verso dove? Un movimento a prescindere da tutto. C'è il desiderio di rimanere, di non rimanere intrappolati. E quindi il movimento è un antidoto alla rigidità. Se vuoi colleghiamo alla vecchiaia in senso davvero negativo solo l'aspetto della rigidità, nel senso sia mentale che fisico evidentemente, quindi l'allenamento al moto sia mentale che fisico è quello che uno si augurerebbe, sarebbe un buon antidoto verso la immobilità, e quindi è più quello che stabilire un punto di partenza, un punto di arrivo, ecco. Dalla tradizione al tradimento e poi c'è un ritorno. Che cosa hai messo in valigia in questi 3 anni e mezzo di viaggio? Che cosa hai tenuto e che cosa hai lasciato? Ho tenuto lo spirito probabilmente di volere mettere in discussione tutto, anche le cose che erano andate bene prima, quindi anche i punti di riferimento più solidi, e provare inizialmente a distruggermi. Quello l'ho abbandonato perché mi sono reso conto facilmente dopo qualche mese che era più un'ossessione quasi masochistica che una via verso il miglioramento. Io lo intendevo proprio come una rinuncia ad alcuni punti fermi e a migliorare esplorando territori un pochino meno evidenti per me. Però salvo di tutto quel periodo che è stato un fallimento in qualche modo, cioè artisticamente non ha prodotto nulla se non la canzone Amori con le ali che è nel disco, tutto il resto invece è stato una rielaborazione successiva di quello che avevo fatto prima. Però ecco, quella ragione iniziale la salvo di sicuro. Perché hai scelto il termine tradimento in qualche modo per indicare il coraggio anche di cambiare, no? In qualche modo di rompere qualcosa della tradizione, che è un termine che solitamente ha un'accezione negativa. Il tradimento ha iniziato ad avere un'accezione negativa, diciamo, dal Vangelo in poi, nel senso che comunque è ovvio che il termine latino da cui viene sia tradizione che tradimento in realtà significa consegnare, spostare, portare da un posto a un altro, quindi non ha una connotazione negativa in sé. È ovvio che il momento in cui fu scritto che Giuda fu quello che tradì Gesù, nel senso che lo portò fisicamente, lo consegnò ai farisei, allora noi da quel momento in poi tendiamo a dare una connotazione negativa, diciamo che da un punto di vista simbolico. Anche in analisi il tradimento è semplicemente un mettere in discussione se stessi, un provare un'ulteriore strada e magari imparare qualcosa di più di quello che siamo grazie a alla negazione delle cose confortevoli. E anche banalmente il tradimento nell'accezione quella più comune della coppia è spesso, non sempre, anche un modo di rivalutare l'importanza di alcune cose, cercando di in qualche modo metterle in discussione anche in maniera violenta. Ecco, che disco è? Che cosa racconta? La scelta difficile, che in ogni forse momento della vita, ma più si va avanti e più diventa, secondo me, importante, è la scelta del come rimanere vivi e quindi come bilanciare, le sicurezze che si sono accumulate nel passato con le insicurezze che invece sono quelle che ti fanno La sentire vivo. prospettiva. Esatto. Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza. Il marito della donna di cui ti sei innamorato, sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato. Quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone. Sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso facci un giro e poi mi dici, e poi io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta opposizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto. Il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio. Il direttore della banca dove hai domandato un figo. Quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso vacci a fare un giro. Poi mi dici, poi mi dici. Il Io sono l'altro è un brano che ci porta in qualche modo ad uscire un po' da noi stessi. Pensi che abbiamo paura dell'altro perché abbiamo paura di rivedere qualcosa di noi? Credo che abbiamo paura degli altri per mille motivi, perché ne abbiamo bisogno, perché sono anche quelli che ci salvano, non solo quelli che ci uccidono, e perché limitano però altre volte la nostra libertà, perché inevitabilmente, hanno i loro. No? Le loro esigenze che non sempre sono le nostre, e noi viviamo continuamente nella difficile posizione di dover equilibrare i nostri desideri e quelli degli altri, soprattutto se viviamo in una società, in una città, a maggior ragione, dove pensa quante persone confliggono quotidianamente dalle file, dal ruolo che in questo momento io e te possiamo avere, che non è lo stesso. Io mi voglio riposare, tu invece devi fare un'intervista, io devo accettare il fatto che io sono qui in giro per promuovere una cosa e tu mi aiuti a farlo, cioè, però poi domani i ruoli si potrebbero invertire, no? E quindi in qualche modo è proprio necessario trovare un modo di accettare, di convivere, al di là del fatto del diverso, inteso come quello che c'è il colore della pelle diversa, certo, che è una delle conseguenze finali, però il principio riguarda tutto e tutti. È un disco che contiene conflitti e questo si capisce dal titolo subito. Tu dici che dopo ogni scelta arriva il conto. È il prezzo da pagare per rimanere fedeli alla propria identità? No, ma il conto in realtà arriva in qualsiasi scelta uno faccia, anche la scelta di tradire la propria identità, evidentemente poi in qualche modo avrà delle conseguenze, cioè il conto è semplicemente le conseguenze inevitabili no? Che sono successive a qualsiasi scelta, perché viviamo comunque in una linea retta, non ci sono ritorni possibili, e quindi è ovvio che ogni scelta in qualche modo indirizza il nostro percorso, senza essere apocalittici, perché poi per alcune cose si può un po' tornare indietro, però simbolicamente no, cioè una scelta è un momento che ha delle conseguenze, a volte minime, a volte però importanti, credo. Scotta una penna quando scrive l'imprevisto, quando scopre quello che è nascosto, quando non si gira dall'altra parte, l'arte non è una posa, ma resistenza alla mano che ti affoga. Cabina dell'aereo al decollo, la potenza dell'eterno dentro il quotidiano, una caraffa di acqua e limone, un bacio accanto a un gelsomino, la felicità è un momento di distrazione. Questo è un disco di sperimentazione che è stato scritto e registrato tra Roma e Ibiza. Hai esplorato nuovi linguaggi e sonorità elettroniche. Quanto è stata determinante la collaborazione con Costanza Francavilla? Molto, anche se il risultato finale non è così esagerato come voleva essere all'inizio. All'inizio il tentativo era di renderlo molto più elettronico. Poi della collaborazione con Costanza sono rimaste due o tre cose, perché erano le uniche canzoni in cui quel linguaggio si sposava in maniera naturale con il suo, perché lei lavora in una maniera puramente elettronica, cioè non con... nel mondo elettronica c'entra tutto e niente, cioè l'elettropop, no, c'è la sperimentazione elettronica, quindi a me interessa vedere da un punto di vista creativo, non tanto dal punto di vista solamente del suono. Quindi lei ha contribuito a far rimanere in tutto il disco delle suggestioni di quel mondo dal suo studio di Ibiza, però poi da Roma con Roberto Angelini e Pier Cortese abbiamo trovato un equilibrio, lasciando lei libera di esprimere il suo linguaggio, però poi noi dovevamo assolutamente in qualche modo adattarlo alle esigenze delle canzoni. Ecco, il disco è stato prodotto appunto insieme a Roberto Angelini e a Pier Cortese. Non sono solo colleghi, sono anche persone care che, come hai scritto, ti hanno aiutato a tornare a casa nei giorni dello sbarrimento. Quanto fa la differenza, poi anche in termini di risultato finale, lavorare con persone con cui c'è un legame anche che va oltre l'aspetto professionale? Ma quello dipende dai caratteri, credo. Cioè, io mi nutro molto di vicinanza. Ci sono altre persone che invece hanno bisogno di conflitti per dare il meglio di sé. Dipende anche dal linguaggio artistico, alcuni linguaggi artistici che sono sentimentali, è ovvio che si nutrono dell'atmosfera sentimentale che c'è in uno studio, del calore che la presenza di persone amiche ti dà. Però ovviamente sono generi musicali e anche altre arti in cui non è detto che questo sia altrettanto funzionale. Per me lo è in maniera indiscutibile. Ti facciamo un'ultima domanda. Tutti sappiamo che cos'è la felicità, fino a quando non dobbiamo definirla. In Scotta tu dici: la felicità è un momento di distrazione mentre la mano sul fuoco scotta. Che cosa volevi dire? Ma sai, al di là del fatto che il gesto, l'espressione artistica vale quello che stimola, non tanto la spiegazione che ne dà. Ci interessava capire insomma un pochino certo, cosa pensi tu della felicità. No, nel senso che comunque è ovvio che qualsiasi sintesi poetica, artistica, non è una spiegazione da manuale trattato di sociologia o filosofia. La sensazione di sicuro è quella. Cioè che l'inconsapevolezza storicamente porta una felicità immediata, infantile, quel riso che solamente i bambini hanno perché vivono le cose per quello che sono esattamente, senza una memoria ancora, senza una prospettiva, e quindi sono felici proprio perché sono distratti da tutte le conseguenze, da tutte le implicazioni, no? Quando noi, che ne so, ci innamoriamo, che potrebbe essere un momento di felicità, però dopo poco sicuramente iniziamo a pensare alle conseguenze, se ci saranno delle conseguenze negative, questo significa allora perdere la mia libertà, non so più, piuttosto che... Non oppure è magari soffrirò. Esatto, insomma, e quindi tendenzialmente iniziano i pensieri, le consapevolezze, quelle quasi sempre tolgono, no, quell'attimo di felicità. Grazie a tutti i treni, biciclette e torpedoni, zattere e gommoni, funicolari e risciò, pattini e pattini, alianti e passeggini, carrozze e carrozzini, gondole e pedalò. Cicli e carovane, ambulanze e pescherecci, taxi e metropolitane, macchine a noleggio e tavole da sé. Grazie agli aliscafi, motociclette e motorini, barche a vela e furgoni, idrovolanti e tuk-tuk, elicotteri e trattori, aerei di linea e deltaplani, paracaduti aperti e doni, cavalli bianchi e roulotte, dromedari e bamboletti, razzi supersonici e piroghe, elefanti indiani e bighe, microscopi e cannocchiali, amori con le ali. Amori con le ali. Amori con le ali. Grazie a chi mi ha regalato un movimento, allontanandomi da qualcosa e avvicinandomi a qualcos'altro, avvicinandomi a qualcuno e allontanandomi da qualcun altro, allontanandomi da qualcun altro. Grazie a chi mi ha regalato un movimento, allontanandomi da qualcosa, avvicinandomi a qualcos'altro, avvicinandomi a qualcuno e allontanandomi da qualcun altro. Soprattutto allontanandomi da qualcun altro. Questo era uno dei brani sperimentali dell'album Amori con le ali. Gli abbiamo chiesto che cosa ha tenuto e che cosa ha lasciato in questi anni rispetto insomma al disco precedente. Sono passati 3 anni e mezzo da una somma di piccole cose che si è aggiudicata la targa Tenco per la categoria album dell'anno. La prima targa Tenco, quando l'ha ricevuta? Vedi chi mi fa la controdomanda, perché devo partire. Sono diabolica. Sì. Allora, la prima targa Tenco l'ha ricevuta nel 2013 con il suo disco Ecco. Le sai tutte? Vero, le so tutte. Ricordiamo che Nicolò partirà a dicembre con un tour nei teatri italiani ed il 10 di gennaio farà tappa a Bologna all'Europa Auditorium. Anche per oggi è finita, dobbiamo salutarvi. Vi ricordiamo però di seguire le nostre pagine social, ci trovate come @ About Cult sia su Facebook che su Instagram, insomma siamo un po' dappertutto. Ovunque. Ciao a tutti. Ciao. Se potessi fare a meno di decidere, non sarei di certo così stanco. Ogni volta è una conquista riconoscere quale sia la mia metà del campo. Guardo i fogli ancora bianchi sul mio tavolo, non ho idea di cosa farci e quindi sto come un uomo che è davanti ad un citofono e non ricorda più il cognome. Il filo e sono in bilico nelle insieme. insidie di ogni cambiamento. Tra le forze che da sempre